Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Egregio direttore, a seguito di episodi giudiziari che non starò qui a raccontare, l'azienda per la quale lavoro dal sesto gruppo industriale nell'ambito dell'edilizia pubblica nell'anno 1992 oggi è in liquidazione con una perdita di circa 3.500 addetti. A oggi i processi si sono conclusi tutti a favore della nostra azienda, ma le persone licenziate non potranno mai recuperare quello che hanno perso. Io credo che fin tanto che i giudici non dovranno rendere conto a nessuno, anche pagare i danni, per esempio, la giustizia giusta sarà latitante. Questo collegato al surreale processo Mills, che come al solito in questi ultimi anni vede protagonista il presidente Berlusconi, dà l'immagine di un sistema giudiziario facilmente duttile alla finalità politica. Solidarietà al presidente Berlusconi. La sinistra pensi a trovare le ragioni politiche della sua sconfitta e quelle di una possibile rimonta, invece di giocare al tiro al piccione con il presidente. I giudici, invece, potrebbero solo dedicarsi ai milioni di processi che non trovano ancora soluzione. Con stima, Luciano. Gentile direttore, ieri ho trovato tra le pieghe dei giornali una notizia che, come molte altre in Italia, mi sembra passata un po' troppo in silenzio. I CIE assomigliano a dei campi di concentramento, tanto che la permanenza di 6 mesi è stata bocciata dal Parlamento. Questa dichiarazione non l'ha fatta un buonista, un vescovo o qualche organismo internazionale che non conta un fico secco, ma il nostro luminoso premier che aggiunge una perla alla sua già lunga collezione. Ora, a parte che forse Berlusconi non lo sa, ma la norma che autorizza i 6 mesi di detenzione è passata di nuovo alla Camera dopo essere stata tolta in Senato, ma lui è occupatissimo, non può sapere tutto. Si dimentica forse di dire che è proprio la sua maggioranza che vuole questa norma, tanto da riproporla dopo una prima bocciatura. È possibile avere un capo del governo con la maggioranza più ampia della storia della Repubblica che si prende le sue responsabilità, asserisce che la maggioranza è compatta e fedele e capisce che non può fare la faccia feroce un giorno, quelli sui barconi sono reclutati dai criminali e pagano il biglietto e il chirichetto il giorno dopo, li respingiamo per non farli andare nei campi di concentramento. È troppo chiedere un minimo di coerenza. È troppo chiedere che la stampa faccia notare queste contraddizioni, a meno di non considerare Berlusconi una persona disturbata, che parla a vanvera e che non va presa sul serio, ma allora non dovrebbe fare il premier. Dico tutto ciò senza entrare nel merito dei provvedimenti, ma non è più accettabile, se mai lo è stato, sentire chi dovrebbe rappresentarmi contraddirsi da solo a ogni piè sospinto. Domani direi di essere stato frainteso. Con poca speranza per questo paese sempre più alla Putin e sempre più distante dai paesi civili, la saluto. Andrea. Sarebbe interessante che la radio trattasse l'argomento ormai dimenticato delle auto blu. Io vivo a Roma e mi trovo a viaggiare in tutta Italia, in particolare a Milano. Noto da un po' di tempo un incremento nel numero delle auto blu con e senza lampeggianti e in particolare l'introduzione in larghissima misura di Mercedes, BMW e Audi di grossa cilindrata. Tutte macchine di elevato costo e soprattutto di fabbricazione non italiana. Mi sembra che in un periodo di crisi sia uno schiaffo alla popolazione spostare il ridondante parco auto dello Stato su una fascia ancora più lussuosa. Prima le auto erano berline medie. L'Italia è inoltre un produttore di auto che in questo momento ci sta dando anche qualche soddisfazione. E quindi sarebbe un messaggio di orgoglio nazionale mostrare macchine italiane anziché esibirsi in macchine straniere di lusso. Somiglia un po' alla Russia comunista quando i dittatori viaggiavano in costosissime Mercedes nere e la popolazione su auto nazionali peraltro pessime. Non pensa sarebbe interessante da parte di una radio come la vostra, che spesso sottolinea certe contraddizioni, trattare l'argomento per sensibilizzare i nostri governanti e per rendere noi, i poveri sudditi, più edotti circa questa nuova situazione? La ringrazio. Franco. Caro direttore, con questa mia lettera voglio portare un'accusa a tutti gli amici che da ogni continente vengono nel nostro paese. Vi volete decidere ad avviare i vostri figli allo sport? Ormai siete qui da molti anni e i vostri nati sono più che adolescenti. Mandateli per carità di patria nelle società sportive dei borghi piccoli o grandi in cui vivete. Mandateli a calcio, tennis, ciclismo, rugby, volley, basket, scherma e quanto ce n'è. Sono stanco di vedere altre nazionali trionfare su di noi perché hanno africani o asiatici nelle loro file. E non venitemi a dire anche noi abbiamo Balotelli, Ferrari o Andrew Howie. È insopportabile perdere un europeo perché l'algerino Zidane passa il pallone all'argentino Trezeguet e questo uccella Toldo, come avrebbe detto il compianto Brera, portando la Coppa in Francia. Per qualche anno abbiamo vantato nel basket Carlton Myers, che però alla faccia di nome e cognome si mangia la Z come tutti gli emiliani e quindi è straniero in Italia quanto le lasagne e il ragù. Anzi, adesso che ci penso, è proprio come lui che dovete fare. Imparate a mangiarvi la Z se vivete in Emilia, aspirate la C se abitate in Toscana. Cominciate a dire cerea per salutarvi a Torino o baciamo le mani se siete cresciuti a Palermo. Sbrigatevi anche per voi stessi, cari stranieri. Sappiate che lo sport aiuterà i vostri figli a liberare noi autoctoni da pregiudizi e istinti xenofobi. Aiuterà i vostri figli e voi ad integrarvi meglio nel nostro strano mondo che ce l'ha con tutti i romeni, tranne che con Kivu e Mutu, osannati quasi come dei ogni domenica. Sbrigatevi a produrre atleti, perché abbiamo bisogno di vedere con la maglia azzurra qualche italiano nato in Camerun o in Costa d'Avorio al via della finale olimpica dei 100 metri. Voi direte, e la Josefa idem? Vabbè, dai, è arrivata già grande. Non è nata qui, poi è tedesca. Stiamo assieme a loro dal 1957. Io sto parlando dei vostri figli, ragazzi e ragazze che hanno visto l'Egitto o il Perù solo negli speciali di Piero Angela, di giovani che sono nati, studiano, vivono, spendono e si divertono qui da noi, anzi qui e basta, perché è casa loro. Parlo di quelli che, avendo genitori tunisini o argentini, tengono comunque per l'Italia quando si gioca contro la nazionale dei loro padri. Poi vi dirò, sono anche stanco di vedere campioni col cognome ligure o piemontese, Schiaffino o Platini fra i tanti, far grandi le altre nazionali. Abbiamo già dato troppi dei nostri agli altri. È ora di passare alla cassa e vedere degli Ahmed, dei Gutierrez, degli Zou e dei Dumitrescu giocare per noi a volley, calcio o tennis tavolo, orgogliosi della maglia azzurra che portano addosso. Pensateci seriamente e vedete di provvedere alla svelta. Cordialmente, Oliviero. Egregio direttore, giorni fa, rispondendo ad un ascoltatore, lei sosteneva che è luogo comune affermare che con l'avvento dell'euro i prezzi siano raddoppiati, e a conforto della sua tesi portava l'esempio del caffè al bar, dei quotidiani e della benzina. Purtroppo non si campa di soli caffè, quotidiani e benzina. La maggior parte delle voci che incidono seriamente sul bilancio comune sono effettivamente raddoppiate. Saranno anche passati 8 anni dall'entrata in circolazione dell'euro, ma in soli 8 anni non è tollerabile il raddoppio del costo della vita. Voglio proporle un elenco. Con la lira potevi trovare, nei mercati più convenienti, la frutta e la verdura a 1.000 lire al chilo. Ora non la trovi a meno di 1 euro. In una pizzeria popolare te la cavavi con 15.000 lire, ora sei fortunato se spendi 20 euro. Un paio di scarpe minimamente decenti costavano sulle 90.000 lire, adesso 90 euro. Un appartamento di 2 camere e cucina, 800.000 lire. Ora 800 euro se ricevi una grazia. Potrei dilungarmi parecchio elencando il raddoppio di generi di consumo legati a un tenore di vita medio-basso. Ovviamente il disagio nasce dal fatto che gli stipendi siano rimasti più o meno gli stessi di 8 anni fa. Con ciò non voglio fare il solito piagnisteo del rimpianto della lira, ma le assicuro che percependo uno stipendio medio-basso, quasi fermo 8 anni addietro, qualche lieve disagio lo avverto. Cordiali saluti, Lamberto. Caro Lamberto, ho scelto la sua tra le tante lettere che sono arrivate a Radio 24 sul tema dell'euro. Innanzitutto, questo vuol dire che a 10 anni di distanza le polemiche sul passaggio alla moneta unica sono ancora vive e sentite. Lei fa alcuni esempi di beni il cui prezzo negli ultimi 10 anni è raddoppiato. Non voglio entrare nel merito dei singoli casi, che certamente sono veri, ma in cui l'andamento dei prezzi, pensiamo al mercato della casa, è dovuto anche ad altre variabili. Vorrei solo aggiungere una piccola riflessione. Se non ci fosse stata la moneta unica, il livello dei tassi di interesse e della stessa inflazione sarebbe stato ben più alto. Se guardiamo gli anni 80 e 90, la crescita dei prezzi era stata ben più veloce. Certo, 30 anni fa eravamo tutti più giovani, ma non per questo dobbiamo avere nostalgia per l'inflazione a 2 cifre. Cara Radio 24, l'informazione continua a rappresentare l'arrivo dei barconi come un problema di sicurezza. Come se i migranti possano essere qualificati tra clandestini e criminali a seconda di come arrivano in Italia. La realtà, invece, è che il migrante è clandestino se privo di autorizzazione. È criminale se commette un reato. Il problema è di rispetto delle regole previste per la permanenza degli stranieri in Italia. È vietato far lavorare un irregolare, edilizia, ristorazione, assistenza familiare. È vietato locare un appartamento all'irregolare. È vietato favorire l'immigrazione anche con una falsa richiesta di lavoro. Tutti comportamenti comuni tra gli italiani. E allora il problema è il rispetto delle regole per la permanenza legale sul territorio del migrante. Gli stranieri sui barconi hanno il diritto di essere accolti e controllati con quanto ne consegue. La sicurezza in tutto questo non c'entra, se non quella sui posti di lavoro, ma questa è un'altra storia. Saluti, Piero. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Il prossimo appuntamento con le vostre lettere a Radio 24 è oggi pomeriggio alle 18:30. Continuate a scriverci.